Se letteratura, pittura e musica fossero tre sorelle, per usare di un titolo di Rex Stout, se non vado errato, Carlo, tu che te ne intendi, sarebbero tre sorelle nei guai. La capacità di riproduzione di cui la tecnologia odierna ci gratifica praticamente non ci nega nulla. Tra l'originale e la copia non c'è più il salto che c'era una volta. Tutto ciò non creerebbe soverchi problemi se non ci fossero antichi privilegi da difendere. Si potrebbe ridere del fatto che non ci sia Festival di Sanremo che non inizi o si concluda fra battibecchi e denunce di plagio, basi musicali fatte e rifatte tali e quali o appena cambiate di una nota. Roba che fa individuare il già sentito perfino ad uno come me, che non riuscirebbe a distinguere Bach da Orietta Berti se non in fotografia. Si potrebbe ridere delle numerose avventure e delle altrettanto numerose disavventure che capitarono al genio di Giorgio De Chirico. Pittore sì, innamorato di sé, ma non fino al punto di ricordarsi perfettamente quel che faceva, per cui oltre ai numerosi falsi che gli scoprì dell'opera propria, finì con lo scoprire e dichiarare come falsi anche quadri che analisi successive dimostrarono essere, ahimè, ai lui autentici. Si potrebbe anche tornare a ridere della beffa orchestrata da quegli studenti livornesi intorno a quella testa che, contraddittoriamente, avrebbe dovuto essere stata scolpita da Modigliani almeno una settantina di anni prima che il Black & Decker fosse stato inventato. O si potrebbe ridacchiare dei casi letterari. È appena stato reso noto che i famosi pensieri di Pascal non erano proprio suoi, ma vabbè, sono stati messi giù alla bella e meglio da un nipote. Ma ecco, da questo punto di vista possiamo tutti stare tranquilli che per la letteratura del passato possiamo dire che c'è un futuro irto di sorprese. L'Aristotele che leggiamo e tramandiamo, per esempio, non è garantito affatto. Leggiamo e tramandiamo copie di copie, rimaneggiamenti e astute falsificazioni fatte da qualcuno per scopi che oggi possono anche sfuggire, ma che visti con l'occhio di ieri sono fin troppo chiari. Non dimentichiamo che su di un presunto aristotelismo si è eretto per secoli la dottrina della Chiesa Cattolica, per esempio. È presumibile dunque che l'applicazione dei nuovi strumenti di analisi ai testi dei grandi del passato riservino risultati invero sorprendenti. Le rivelazioni storiche, vere o presunte che siano, d'altronde si susseguono oggi con ritmi da Eva Express. Giordano Bruno, più che filosofare, faceva la spia qualche mese fa. Lorenzo il Magnifico, più che poeta e un benefattore, era un carognone assassino qualche settimana fa. Gilles Deret, oggi barba blu della fiaba di Perrault, più che un mangiatore di bambini, era un mite oppresso dal sistema. Non ci sarebbe da meravigliarsi dunque se Dante Alighieri avesse scopiazzato da Cecco Angiolieri o se i fioretti di San Francesco li avesse fatti fare, meglio, su misura Papa Innocenzo III. Qualche settimana fa c'è stato il caso del romanzo di Marguerite Duras. Qualcuno ha inviato ad un editore un romanzo della Duras, già pubblicato e già osannato dalla critica, l'ha inviato ovviamente in forma dattiloscritta e a propria firma. Ebbene, puntualmente l'editore gliel'ha rifiutato con poche parole di disistima. L'altro giorno c'è stato il caso beffardo dello studente 14enne che ha partecipato ad un concorso di poesia cercando di aumentare le proprie probabilità di successo. Vabbè, invece di inviarne una propria di poesia, ne ha inviata una di Ungaretti, e gli è andata bene in fin dei conti, gli è andata bene, visto che la giuria di esperti l'ha premiato con un secondo posto, dal quale peraltro chi credesse nei valori eterni e indubitabili della poesia potrebbe arguire che Ungaretti è comunque inferiore alla signorina Giorgia Agnoletto, quinta elementare a Nievo, in provincia di Padova. Ad Ungaretti comunque avrebbe potuto anche andar peggio, non riconosciuto e magari non fra i premiati. Dicevo che oggi computer e altra tecnologia della riproduzione alla mano sono cose che succedono e che non dovrebbero poi far gridare allo scandalo nessuno. Invece se grattiamo sotto i commenti delle corporazioni interessate, scopriamo qualcosa di preoccupante. Si continua a parlare dell'artista e della sua opera come portatori di una misteriosa qualità che sempre e ovunque li distinguerebbe dal resto del mondo. Il critico che commenta gli scherzi riusciti ci dice che sono riusciti perché oggi non valgono più le regole di certe tradizioni che imponevano regole metriche ai veri poeti, che comunque il vero poeta ha dentro di sé i canoni della propria disciplina e che soprattutto il vero poeta va distinto sempre dai milioni di pseudopoeti di cui purtroppo un paese come il nostro sarebbe pieno, sono citazioni, come se alla presenza di costoro dovessimo, alla presenza di questi milioni di pseudopoeti, dovessimo le fosche previsioni che siamo tentati di fare per il nostro futuro. Guai, insomma, a toccare l'arte. Guai soprattutto a toccare i privilegi di cui l'artista, per una sorta di superiore ragion di Stato, dovrebbe essere dotato. Criteri appena dignitosamente formulabili per distinguere il vero poeta da quello falso, naturalmente non ne hanno né ne tirano fuori. Ammettere che la poesia possa albergare nel cuore di chiunque, questo mai, perché sennò il mercato non saprebbe più come regolare i suoi prezzi. Si arriverebbe all'inflazione dell'artistico e costituirebbe l'inizio della fine per una casta storica. Le antologie e le scale di valori disegnate, pur fra mille contraddizioni nelle varie storie dell'arte, vanno rispettate ad ogni costo. Anche in materia d'arte occorre continuare a dire, pur con tutte le oscurità di linguaggio del caso, che le cose stanno così e che antologie e storie varie, anziché costruzione di qualcuno, sono lo specchio incolpevole di una situazione di fatto. Rinunciarvi, se può significare che a ciascuno sarebbero offerte pari opportunità, significa anche che a qualcuno mancherebbe quel vitalizio offerto da questa società di conculcati. Just to feel so uninspired.